al mondo e lo fa ogni mattina. Mi spinge per strada in mezzo a gente vera che lotta senza aver la faccia di cera. E la tua dove sta? La tua dove sta? Entra questo caos centrifugandomi la vita. Schiaccio sul pedale che non è ancora finita. Anche se il mondo è pieno di queste iene, dimostrerò che ho ancora sangue nelle vene. E se tu mi fermerai, io ancora no. Ma non pensare che sia in mezzo a una festa. È solo che tutto quello che sta accadendo è un'arma calda che ci sta uccidendo. Ma quando finirà? Ma quando finirà? Forse anche domani, se qualcuno mi dirà che questa barca senza remi non affonderà. La spiaggia dove ti puoi sdraiare, il dolce vento se parla lo puoi ascoltare e ti dirà che pace è. Adesso